Italy, Belle Italy. Ciao Italy, pizze, spaghetti e gatti sui tetti, ma anche nostalgia, piena di sole, quel po' che ci vuole di malinconia. Ti amo così, Belle Italy. Così, bella Italia, bella Italia.